Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere, ad esempio sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale 6180 4001, da intestare alla cooperativa culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185 Roma, ma anche semplicemente a Radio Onda Rossa. E uno dei modi è anche quello che potete trovare sul sito internet della radio, che è ondarossa.info. Sulla homepage c'è l'opzione sostieni per la modalità PayPal. Siamo all'appuntamento con il cinema come ogni giovedì, e la scaletta di quest'oggi la trovate sia sul sito della radio, alla voce trasmissioni Visionari, sia sulla pagina Facebook di Visionari, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Potete seguirci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio. Sulla homepage c'è l'opzione ascolta la diretta. Siamo in collegamento con Antonietta De Lillo, regista del documentario La pazza della porta accanto, in uscita in sala oggi giovedì 13 novembre. Antonietta, ben ritrovata. Salve a tutti. Ci eravamo sentiti, stavo ricontrollando, a maggio, perché lo proponemmo al Teatro Valle Occupato, questo lavoro. Sì. Allora, dedicato alla figura di Alda Merini, raccontaci un po' qualcosa di questo documentario. Beh, più che un documentario, è un vero e proprio ritratto, cioè sì, c'è solo lei che si racconta e mi racconta. E io l'ho incontrata a questo punto più di 15 anni fa, avevo fatto già un ritratto, ma mi sembrava che comunque parte di questo incontro fosse rimasto in un cassetto, e quindi insieme al Rai Cinema ho riaperto questo cassetto, ho montato La pazza della porta accanto, e devo dire che è un piccolo lavoro che mi sta dando tanta soddisfazione, nel senso che proprio è stato presentato a Torino l'anno scorso e all'anteprima romana proprio al Valle. In realtà è stata una serata molto emozionante, tanto che Mariposa, che la distribuzione del film, appunto ha espresso il desiderio e la sensibilità di distribuirlo. Per me è una cosa molto piacevole pensare che un ritratto possa andare nelle sale, mi dà l'idea che comunque ritorniamo a delle programmazioni che offrono prodotti diversi, non solo commedie ma anche documentari, ritratti, e insomma oggi sono abbastanza fiduciosa del domani. Senti, su questo ritratto, per chi ci ascolta, diamo anche delle emozioni, delle suggestioni rispetto alla figura di Alda Merini in questi incontri che avete fatto nella sua casa poi alla fine. Sì, infatti il ritratto si apre proprio con la Merini che dice: signorina, lei mi vuole conoscere. La signorina all'epoca ero io, e io che dico sì, vorrei conoscerla, e lei inizia dicendo: ma i poeti sono inconoscibili. In realtà non è così, non lo è stato per me, per questo incontro, perché lei in maniera molto intima ha chiacchierato, ha conversato sia della sua vita, della sua poesia, del suo, insomma, credo che devo dire in alcuni momenti è un ritratto che mi ha parlato a me come spettatrice, cioè mi ha emozionato il suo rapporto con le figlie, mi ha emozionato il suo rapporto con l'amore, e ha detto anche delle cose che diciamo sono contenta di aver ascoltato, che mi servono nella vita. Una delle più belle frasi della Merini, cioè, è quella che lei dice: io ho illuminato molta gente ma io sono rimasta al buio. Ecco, le sue parole un po' a me mi hanno illuminato, e spero che chi andrà a cinema avrà la stessa sensazione che ho avuto io. Mm-hmm. Infine mi piacerebbe, e lo faremo anche questo, far vedere questo lavoro agli studenti a scuola, perché è un modo di approcciarsi alla poesia che non è teorico. Hai di fronte una persona, un corpo, una sensibilità, degli occhi, una persona che fuma disperatamente anche, insomma. Per me vedere il ritratto è ricordarmi 2 giorni che sono ho passato a casa sua a Milano, e sono stati 2 giorni molto forti. Senti Antonietta, è una persona che ha anche sofferto molto, ha avuto molte gioie, ma ha anche sofferto molto passando anche per il manicomio. Sì, è una persona che ha sofferto molto, ma lei stessa nel ritratto dice: la mia vita è stata migliore di come è stata raccontata. Ecco, io credo che la pace la porta accanto, appunto, questo lavoro è un lavoro che ha stabilito una giusta distanza con Alda Merini. Una giusta distanza vuol dire che non ha un giusto equilibrio tra quello che è stato le sue vicende anche di manicomio e rispetto a quelle che sono state altre vicende, appunto, i suoi amori, ma non solo i suoi amori, anche la sua poesia. In questo ritratto, secondo me, c'è un insieme di elementi che tratteggiano il profilo di una grandissima, grandissima poetessa. Ecco, proprio a questo proposito, alla luce di questo suo aprirsi con te in questa lunga conversazione, in che ottica vedi il rapporto tra la figura e la sua opera? In questo lavoro, oltre a regalarti, come dire, momenti della sua vita, della sua esistenza, che in qualche modo è stata anche un po' troppo a volte narrata, saccheggiata, eccetera, c'è invece proprio il suo amore per la poesia, il suo attingere dalla vita per creare, come dire, per creare poesia. C'è un profilo che non si come dire, non si sofferma sugli aspetti tra virgolette scandalistici o estremamente dolorosi della sua vita, ma li mette tutti a servizio di una creatività e di una fertilità che la Merini ci ha dato, e dove ovviamente la sua vita e la sua poesia vanno a braccetto. Però in questo lavoro lei è innanzitutto e soprattutto una grandissima poetessa, e finisce in maniera molto ironica, quasi scabrosa, il documentario. Senti Antonietta, che forma distributiva avete scelto? Come funzionerà? Guarda, questo distribuisce la Mariposa, e io sarò presente in molte occasioni. Sto per partire per Milano, poi sarò a Roma, immagino a Napoli. Ho visto, quindi, ovviamente una distribuzione evento di 1 o 2 serate, e man mano poi alcuni invece hanno una tenitura di 1 settimana. Mm-hmm. Insomma, è un lavoro che ti tocca il cuore, ma ovviamente è un piccolo grande lavoro, e che secondo me si deve fare strada nel giorno per giorno, cioè seguire la logica contraria della distribuzione, che 600 copie una settimana è finito. Io spero che invece, come una lumachina, cammina e non si ferma. Bene Antonietta, io ti abbraccio, e credo che ci sentiremo a breve anche per Torino, se non sbaglio. Eh sì. Ci sentiamo anche per Torino presto. Va bene. Ciao cara, buone cose. Ciao. Antonietta De Lillo, regista del documentario La pazza della porta accanto, in uscita in sala oggi giovedì 13 novembre. In collegamento con Marco Perri per parlare di una doppia proiezione che si svolgerà oggi a Roma, la Camera Verde. Marco, ci sei? Sì, sì, ci sono. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ah, grazie, grazie a voi. Allora, dici un po' di questa doppia proiezione. Allora, oggi, questa sera alle 7 ci sarà questo omaggio in Camera Verde, al Centro Culturale della Camera Verde, un omaggio a Omar Amiralay, che è stato uno straordinario regista siriano, morto nel 2011, e questa sera facciamo questo piccolo omaggio con due documentari suoi. Il primo alle 19 si chiama Everyday Life in a Syrian Village, e il secondo alle 21 The Citizen, e sono due documentari dove lui, diciamo, mostra come il fallimento della rivoluzione agricola del regime Baath. Senti, come nasce questa iniziativa? Pronto? Come nasce questa iniziativa? Beh, l'iniziativa nasce, insomma, come spesso nascono le cose in Camera Verde, per cui siamo tre anni fa c'è stata una rassegna di film siriani a Roma, all'Accademia di Francia, e lì diciamo, abbiamo conosciuto l'opera di Amiralay, e per cui ci siamo un po' interessati. Abbiamo visto che era stata, insomma, poco vista soprattutto in Italia, ma anche nel resto d'Europa, tranne in Francia, perché lui comunque aveva dei rapporti con la Francia e con Parigi, soprattutto dove aveva studiato da giovane. E quindi, insomma, l'idea è nata da là, diciamo, cercare di aprire alla visione di tutta una cinematografia che comunque è poco conosciuta non solo in Italia ma anche in Europa. Sì, sì. Senti, anche due parole su Camera Verde? La Camera Verde è un centro culturale, si trova in via Miani, quindi zona Piramide, ed è un luogo, diciamo, dove è un luogo piccolo ma anche un luogo grande, un luogo dove si fanno molte cose, perché anche una galleria, è una piccola casa editrice, ed è un piccolo grande cinema dove si trova il cinema d'autore, il vero cinema d'autore. Ci lasci dei riferimenti internet per la programmazione e pure le vostre attività? Sì, c'è un sito che è www.lacameraverde.com, e lì c'è, diciamo, in chiaro e in dettaglio c'è tutta la programmazione che arriva adesso fino a dicembre. Poi ci sarà la programmazione per il 2015, e un'altra cosa che possiamo dire è che a febbraio faremo tutta l'opera omnia di Amiralay in Camera Verde. Benissimo. Quindi questo, diciamo, che è solo una piccola introduzione poi a tutta l'opera di Amiralay che faremo a febbraio. Bene, allora io ti ringrazio, un abbraccio, resta un attimo grazie in linea. Sì, va bene, grazie. Recuperiamo l'appuntamento della scorsa settimana, quello con Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, per parlare con lui del circuito diffuso e dell'uscita in sala del film restaurato Gioventù Bruciata. Gianluca, ci sei? Sì, ci sono. Oh, ciao Federico. Ben ritrovato. Allora, partiamo dal circuito diffuso che coinvolge tre sale qui a Roma, se non sbaglio, vero? Sì, c'è prima di tutto l'Alcazar, che è la sala che ha aderito quest'anno al cinema ritrovato, dove il lunedì e il martedì vengono mostrati i film che sono usciti, che sono uno al mese. A ottobre è stato 400 colpi, adesso è Gioventù Bruciata, e poi attorno a queste sale sono mossi i ragazzi del cinema America, questa sorprendente realtà romana che ha occupato una sala abbandonata da molto tempo, che era l'America. Poi sono stati fatti uscire da quella sala, adesso hanno costruito il piccolo America che sta a fianco della sala che continua a essere chiusa, con una loro bella attività, e che sostengono, che promuovono anche il cinema ritrovato al cinema. Poi questo è diventato anche un progetto rivolto alle scuole e la Minoretti col suo sacro anche ha adottato la nostra proposta. Quindi insomma si sta muovendo qualcosa su Roma, cosa che ci riempie di felicità. Martedì scorso c'è stata la prima di Gioventù Bruciata all'Alcazar, la sala era pienissima, molte persone non sono potute entrare, c'erano tanti giovani, questa è una cosa che ci riempie veramente di gioia, soprattutto perché questo film è un film conosciutissimo, Gioventù Bruciata fa quasi parte, no? dei nostri modi di dire. Però è vero che poi moltissime persone il film non lo hanno visto, pochissimi lo hanno visto al cinema e nessuno l'ha visto al cinema in queste condizioni, perché la versione è restaurata con tutti i colori degli anni 50 ed è un film straordinario, un punto di incontro tra due personalità molto particolari come quello di Nicola Craghi, il regista, e questo è il suo film più noto, anzi è l'unico film della sua carriera che ebbe uno straordinario successo, e James Dean, questo attore così particolare che nel film interpreta un ruolo molto vicino alla sua sensibilità. Ecco, James Dean un attore che ha avuto una carriera incredibile, perché si riduce la sua carriera a un anno, il 1955, quindi 70 anni fa, e in quell'anno lui interpretò tre film, sì. Divenne una star assoluta e morì, e quella sua morte portò ancora più nel mito, nella leggenda, il suo personaggio e questi tre film. Ma dei suoi tre film, Gioventù Bruciata è sicuramente quello che gli è più vicino, quello che amava di più, non a caso è l'unico film in cui lui ha partecipato anche alla scrittura della sceneggiatura e le sue battute gli appartengono completamente. Sì, è anche probabilmente il film per cui viene ricordato maggiormente. Sì, è un film epocale, no? Nel senso, tutta la rabbia che James Dean si porta in corpo viene esibita in maniera geniale in questo film, che è un film veramente in anticipo sul tempo, perché poi il cinema americano arriva ai primi anni 50 raccontando soprattutto storie di persone mature. Ecco, i giovani quando arrivano sullo schermo sono dei giovani molto fasulli, come Mickey Rooney, come Shirley Temple. Quindi questo film che mette in mostra le angosce, la rabbia crescente di una nuova generazione che non aveva problemi economici e che comincia a riflettere su se stessa e sul distacco dai genitori, è un film che veramente anticipa le rabbie delle nouvelle vague, degli inizi degli anni 60, e poi la grande rivolta che scoppierà alla fine degli anni 60. In questo senso anche il titolo originale, che era Ribelle senza causa, è un titolo veramente premonitore, è un film che veramente anticipa un cambiamento sociologico che stava avvenendo negli Stati Uniti, ma che molto presto, nel giro di 10 anni, sarebbe diffuso, propagato in tutto il mondo. Sì, sì, sì. Gianluca, che tipo di intervento c'è stato a livello di restauro? Beh, il lavoro è stato svolto dalla Warner, è stato sovrinteso da Scorsese, e il lavoro è stato soprattutto su tre grandi questioni: il restauro dell'audio, che è magnifico e dove senti, si percepisce tutta la finezza anche delle interpretazioni degli attori, il restauro del giusto formato, il film utilizzava il primo cinemascope, cioè il scope viene inventato nel 1953, questo è il 1955, quindi Rai utilizza un sistema di cinemascope più orizzontale, molto più orizzontale, molto più largo di quello che poi sarà il cinemascope utilizzato negli anni successivi, quindi è stato ristabilito il giusto formato. E poi c'è stato un enorme lavoro sui colori. Chi vedrà il film vedrà una tavolozza di colori che non corrisponde assolutamente al cinema di oggi, ma che sono i colori degli anni 50, con questi colori così squillanti, così saturi, questi blu e rossi così profondi. Quindi ecco, è stato un lavoro di restauro molto molto molto complesso, che ha utilizzato le tecnologie digitali, quindi sembra che sia nel panorama dei restauri degli ultimi anni sicuramente una delle operazioni più importanti che ci sono stati fatti sul cinema americano. Gianluca, un'ultima curiosità, tornando al circuito diffuso, vorrei sapere come è articolato il rapporto con le scuole. Guarda, il rapporto con le scuole passa attraverso la proposta che i ragazzi del Cinema America hanno inviato alle scuole, e chi è interessato li può contattare sul loro sito. Sul sito del Cinema America si trovano tutte Benissimo. Le indicazioni, e naturalmente qualcosa a cui teniamo molto, perché pensiamo che i film che proponiamo attraverso il CIA ricordato al cinema siano spesso dei film che raccontano la storia dell'arte del Novecento, e a volte anche la grande storia del Novecento. Quindi crediamo che poter vedere questi film in sala possa consentire a un pubblico di giovani di capire molto meglio che cosa è stato il Novecento, di avere quegli strumenti che poi sono necessari per leggere in maniera più ampia, più profonda e più consapevole la storia dei nostri giorni, quello che accade nei nostri giorni. Benissimo. Allora ci sentiamo per la prossima uscita mensile. La prossima sarà Tempi Moderni, dove vi prepariamo qualche sorpresa. Benissimo. Un abbraccio. A te, grazie Federico. Ciao Gianluca. Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, sul circuito diffuso e l'uscita in sala del film restaurato Gioventù Bruciata. Abbiamo in linea Mattia Della Puppa di Adler Entertainment sulla distribuzione del film Words and Pictures, in uscita in sala oggi, giovedì 13 novembre. Mattia, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti. Allora, partiamo dalla storia del film, diamo qualche indicazione di trama. Allora, il film esce oggi, appunto, come abbiamo detto, in sala, ed è la storia di un professore di inglese e una professoressa di storia dell'arte, il loro rapporto che inizialmente è conflittuale, e entrambi danno vita a una sfida tra gli alunni delle rispettive classi, perché siamo all'interno di un college americano, per stabilire se siano più forti come forma di espressione le parole o le immagini. Ovviamente questa sfida avrà anche delle ripercussioni sulla loro relazione, poi non vi dico altro perché sarà vivere troppo del film. Senti, uno degli elementi di interesse nel film è che intanto si parla di scuola, e poi dal punto di vista degli insegnanti, tutto questo soprattutto per quanto riguarda Hollywood è abbastanza anomalo. Il sistema scolastico negli Stati Uniti è piuttosto diseguale, nel senso ci sono gli istituti pubblici, ma poi le scuole private soprattutto sono quelle migliori, quindi c'è un'istruzione di serie A e di serie B. Qui la differenza, e arriviamo anche ai due protagonisti, è da una parte c'è l'insegnante di arte. Sì, da una parte c'è l'insegnante di quelle che noi possiamo chiamare belle arti, italiano, esatto. E invece dall'altra parte c'è un insegnante di letteratura inglese, sì, quindi sì. Comunque questi sono i due ruoli. La prima è un po' frustrata, qui c'è il rapporto tra tra città entrambi, e provincia, guarda, sì, esatto. Entrambi hanno, a dover essere sinceri, hanno le loro frustrazioni, sì, nel esatto. senso che il protagonista, che è Clive Owen ed è appunto un insegnante di belle arti, scusami, di letteratura inglese, è un poeta che ormai ha delle enormi difficoltà a pubblicare, nonostante sia stato un poeta di successo in passato, e la stessa cosa vale per Juliette Binoche, che invece interpreta il ruolo della professoressa di belle arti, che ha delle difficoltà invece in questo caso da un punto di vista fisico, perché soffre di una malattia che le impedisce di riuscire a esprimere completamente la sua arte, o meglio ad esprimerla come faceva precedentemente. Questo però diventerà per entrambi una forza vitale, sì. nel senso che entrambi riusciranno poi in qualche modo a superare quelli che sono da una parte dei limiti di natura personale e dall'altra invece i limiti di natura fisica, riuscendo a reinventarsi in qualche modo, far diventare le proprie debolezze una nuova forza per andare avanti. Ecco, dicevo, il rapporto tra le diverse scuole, e da una parte lei, che viene da una scuola comunque di New York, che è un grosso centro, e si ritrova in una scuola della provincia, e quindi subentra anche un altro tipo di frustrazione a livello professionale, e lui un po' anche ha perso questa un insegnante piuttosto atipico, molto molto ha degli aspetti del ribelle in qualche senso, però il fatto che scriva poi e sia responsabile del giornalino d'istituto, proprio in base a questo e ai successi e a quanto va questo giornalino nella scuola, è un po' il termometro della sua valutazione. Lui ha perso pure un po' di stimoli, e anche perché la valutazione è molto soggetta alle leggi di mercato poi alla fine, anche nell'istituto. Sì, certo, anche questo è assolutamente vero. Anche questo è assolutamente vero, quindi ci troviamo, come dicevi giustamente tu, davanti anche a questo aspetto un po' più sociale, sì. da questo punto di vista, sia in termini appunto di una valutazione dell'arte, soprattutto per quanto riguarda Clive Owen, in termini di successo puramente commerciale. E questo tra l'altro poi diventa anche all'interno del film, il personaggio di Clive Owen ha anche un'ulteriore forma di critica, non solo sociale, a questo diciamo chiamiamolo avvilimento della cultura, ma anche all'imbarbarimento della forma di espressione, nel senso che la sua critica ai ragazzi, che poi diventa un momento per spronarli, è principalmente al mondo della comunicazione odierna, quindi all'utilizzo dei social network, a cercare di dire qualcosa in 140 caratteri, quando invece ci sono poemi interi, sì, no? sì, che sì. hanno cercato in qualche modo di definire quello che siamo o dove vogliamo andare. Sì. Senti Mattia, come avete incontrato questo film e poi come avete scelto di distribuirlo? Noi abbiamo acquistato il film circa un anno fa, più o meno, e l'abbiamo scelto perché ci siamo innamorati della storia, ci siamo innamorati delle interpretazioni degli attori, che sono veramente, secondo me, entrambi in uno stato di grazia. Sono due grandi attori, ma in questo film secondo me sono veramente in uno stato di grazia. E la storia ci è sembrata subito molto molto delicata, una bella storia da raccontare. Senti, avete anche deciso di coinvolgere delle scuole per questa uscita? Sì, abbiamo cercato di fare un lavoro anche da questo punto di vista, nel senso che, come ho detto prima, all'interno del film si svolge questa battaglia tra le parole e le immagini, nello specifico tra le due classi dei due professori Owen e Binoche, e noi abbiamo cercato un modo per far sì che questa cosa succedesse davvero, e quindi abbiamo cominciato a coinvolgere quelli che a nostro avviso sono due o tre più importanti istituti italiani per quanto riguarda la parola, la Scuola Holden, e per quanto riguarda la parte di immagini, lo IED, l'Istituto Europeo di Design, e abbiamo organizzato al Cinema Apollo di Milano una sfida dove alcuni studenti selezionati sono sfidati cercando di capire quale fosse la forma migliore di espressione per esprimere in questo caso l'immaginazione. Il tema che avevamo scelto era l'immaginazione. Quindi si è svolto questo bel incontro dove i ragazzi sono arrivati e hanno prima visto il film, e poi ovviamente si erano già preparati prima con le loro opere e ci hanno fatto vedere quello che secondo loro era la migliore forma di espressione. Ci ha dato una mano il professor Zecchi a fare questa cosa, che era lì con noi e ha coordinato, diciamo, questa cosa, e quindi è stata una bellissima esperienza per tutti, molto bella. Senti, allora chiudiamo con un parere personale, e come ti posizioni tu in questa sfida tra immagini e parole? In maniera salomonica, però secondo me vince la musica, va bene? No, dai, allora cerchiamo di fare le cose per bene. Per me vincono le parole, perché io sono un lettore molto avido. Mm-hmm, e quindi questo, per me vincono le parole. Però facciamo vincere anche le immagini e andiamo a vedere il film, dai. Ok, allora, da oggi nelle sale in quante copie, Mattia? 50. 50 copie, beh, insomma, niente male. Ci sentiamo alla prossima novità, allora. Volentieri. Un abbraccio. Un saluto a tutti. Ciao. Mattia Della Puppa di Adler Entertainment sulla distribuzione del film Words and Pictures, in uscita in sala oggi giovedì 13 novembre. Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più, le informazioni sulla puntata di oggi, ma anche sulla trasmissione in generale, le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, e sulla pagina Facebook di Visionari. È con noi Gianfranco Pannone, regista del documentario Sul Vulcano, in uscita in sala oggi giovedì 13 novembre. Gianfranco, ben ritrovato. Ciao, eccoci qua ancora una volta. Sì, non è passato tanto tempo, era inizi di agosto quando presentammo questo tuo lavoro, che oggi esce in sala, per cui ripercorriamo un attimo la storia di questo lavoro, Gianfranco. Sì, il film fu presentato appunto quest'estate, è stato presentato al Festival di Locarno, ha avuto il suo battesimo, diciamo, internazionale a Locarno. Adesso esce finalmente in qualche sala, perché insomma non è facile, è faticoso uscire dalle sale con un film documentario, esce con Luce Cinecittà. Adesso io sono a Napoli, stasera lo presentiamo a Napoli, ma da stasera è anche a Roma, per esempio, al nuovo Cinema Aquila. Sì, come nasce questa storia, Gianfranco? Ma sai, io in questo momento sono molto incuriosito, cioè io credo che la faccio un po' grande, ma in realtà non è così grande. Diciamo che si dice che l'Occidente sia in crisi, no? E in qualche modo è come se l'uomo abbia preso coscienza di un senso di precarietà che accompagna la sua vita dopo le illusioni prometeiche del Novecento, diciamo così. Per farla però più facile, questo che si dice, io penso che a Napoli si possa invece raccontare un modello di vita che può essere anche positivo, no? Il famoso fatalismo napoletano, deriva proprio da questo senso di incertezza, che non è solo un'incertezza storica, è anche un'incertezza geologica dovuta alla presenza del vulcano, ma anche poi un altro vulcano che è quello dei Campi Flegrei. Quindi Napoli è circondata da aree vulcaniche che sono anche potenzialmente pericolose, che hanno dato terra fertile, per esempio, ma hanno anche tanto preso. E nel senso che appunto il Vesuvio periodicamente si incazza e si porta via un po' di cose. Ora, detto ciò, credo che oggi si possa proprio raccontare questo rapporto difficile e complesso ma magnifico dell'uomo con la natura, partendo proprio da Napoli e dall'area vesuviana. Cioè la natura forse è più forte dell'uomo, e l'uomo comunque ci deve fare i conti, ed esiste una sapienza antica che faceva sì che un Giordano Bruno, nato appunto ai piedi di Nola e bruciato per le sue idee, per così dire, panteistiche, dicesse: il Vesuvio non è necessariamente un nemico, ti devi rapportare da amico, così come lo interpreta nel film Tony Servillo, che dà voce appunto a Giordano Bruno. Ma potrebbe essere anche la sapienza del contadino di un tempo che non avrebbe mai costruito una casa o coltivato la terra sulle antiche strisce laviche. E la domanda che mi pongo è questa: diceva, oggi che invece l'uomo ha fatto di quel territorio tutto il contrario di tutto, chi è che fa più danni? Ha fatto più danni il Vesuvio in 20 secoli o l'uomo in 100 anni, costruendo appunto sulle antiche strisce laviche o magari mettendo su discariche abusive? Senti Gianfranco, i tuoi personaggi come sei andato a cercarli? Beh sì, ci sono dei personaggi che sono importanti nel film, sono testimoni che ho cercato lungo mesi e mesi di ricerche, che ho trovato anche casualmente. Maria fa parte di un'azienda florilistica e vive anche da intellettuale il suo rapporto col Vesuvio, attore del Greco, in campagna, nelle campagne, la considera un po' la custode del Vesuvio, così come Matteo è un artista che fa le sue opere, i suoi quadri con la pietra lavica, e Iole è una cantante neomelodica che non ama essere considerata neomelodica, quindi praticamente c'è come dire, queste tre persone rappresentano in qualche modo un rapporto con una terra storta ma magnifica, insomma, e loro sono la rappresentazione di una realtà esistente che non è né teatrale né drammatica, non c'è teatrino napoletano, non c'è dramma a tutti i costi, ma quasi una sobrietà e una malinconia che fanno parte del carattere dei napoletani e dei vesuviani. Da una parte c'è, ti avevo già fatto i complimenti, una grande eleganza formale per quanto riguarda sia gli scorci che la fotografia di Tarek Ben Abdallah, notevole, e dall'altra anche una bella ricerca letteraria con un sacco di riferimenti a scritti del passato riguardanti proprio lo specifico Vesuvio. Sì, c'è un lavoro sul paesaggio che è molto molto importante. Il lavoro sul paesaggio l'abbiamo appunto fatto con tutto un discorso preliminare con Tarek Ben Abdallah, cioè cercare di raccontare la bellezza. Io considero un po' questo film un viaggio sulle macerie di un paradiso perduto, ecco, lo considero tale. E questo paradiso perduto è dato anche dalle suggestioni letterarie, perché ci sono 12 testi che vengono letti da altrettanti attori lungo il film, che vanno da Pino il Giovane a Leopardi, da De Sade a Malaparte, passando per Sandor Marai piuttosto che per Fabrizio Ramondino. Quindi tante suggestioni di un luogo che è stato cantato nei secoli proprio perché è particolare e perché è unico. L'idea di una città oggi di più di 1 milione di abitanti piedi su un vulcano è qualcosa che ha sempre affascinato l'immaginario degli scrittori e degli intellettuali di qualsiasi epoca. Senti, come hai pensato poi l'uscita in sala? Perché non è mai semplice per i documentari. No, adesso si esce praticamente al Nuovo Cinema di Roma e al Modernissimo di Napoli. Poi ci sarà una serie di giro che io accompagnerò da Latina a Modena, a Parma, a Milano, a Bologna, a Palermo. Spesso saranno eventi unici, qualche volta come a Firenze, per esempio all'Odeo di Firenze sarà la settimana prossima, sarà anche in tenitura. La difficoltà è che sul film documentario presentato in pieno autunno, tu sai che ci sono 13 film in uscita, questo fine settimana non è facile. Perché io spero molto che questo weekend vada bene, in particolare a Napoli e a Roma, e che ci sia un po' di passaparola, insomma. Diciamo che le premesse sono buone, il film mi sembra che piaccia e sono curioso di vedere quello che succederà da qui a 3 giorni. Senti, i napoletani direttamente o meno coinvolti, che riscontri ti hanno fatto? Che risposte? Adesso ho una conferenza stampa con un po' di giornalisti napoletani qui al Modernissimo. Questa sera abbiamo la prima napoletana e la reazione mi sembra sostanzialmente positiva. Cioè, il pubblico napoletano non è un pubblico facile, perché i napoletani sono un po' scettici, un po' come i romani per natura, insomma, è la storia e anche il Vesuvio che li ha resi così. Devo dire che mi sembra che piaccia molto questo ordito tra passato e presente, c'è una sorta di tempo sospeso nel film, che è un po' come il Vesuvio che arde, ma arde sotto e non si vede, perché Napoli così è oggi, no? C'è una calma apparente, insomma, e questa calma apparente in qualche modo crea forse potenzialmente più tensione di un qualcosa che potrebbe essere esplosivo. Ecco, questa è un po' la rappresentazione che mi sembra accettino anche molti napoletani. Vedremo stasera davanti a 300 persone che cosa succederà. Bene Gianfranco, allora io ti abbraccio, ci sentiamo presto. Sì, domani lo presento a Roma. Domani a Roma. Questo fine settimana sarò presente sempre alle 21, sia venerdì, sabato e domenica al Cinema Nuovo Aquila, quindi vuol dire presenterò il film personalmente, spero di vedere anche un po' di spettatori in quell'occasione. Benissimo. Allora un abbraccio. Grazie. Ciao, a presto. Ciao. Ciao, un abbraccio. Gianfranco Pannone, regista del documentario Sul Vulcano, in uscita in sala oggi giovedì 13 novembre. Bene, torniamo a parlare, come spesso ci sta capitando in quest'ultimo periodo, di Sicilia, perché sta prendendo il via una rassegna documentaria dal titolo Documentaria Noto, che appunto a Noto si svolge dal 14 al 23 novembre. Ne parliamo con uno degli organizzatori, che è Francesco Valvo. Francesco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie. Grazie a tutta la redazione di Visionari. Grazie per l'invito intanto. Sì, come dicevi, siamo arrivati adesso finalmente alla seconda edizione, sì, di questa rassegna proprio nascitura. È un'esperienza che è andata quasi volante in un anno. Abbiamo iniziato ad aprile con una sorta di edizione zero, e adesso già ci troviamo alla seconda edizione di Documentaria. Documentaria è una rassegna che durerà 10 giorni, dal 14 al 23 novembre, specifica sul documentario, documentaristi siciliani certo, ma anche ospiti da fuori. Avremo quattro registi non siciliani che proietteranno i loro lavori, fra cui Giovanni Cioni, Stefano Cattini, Cristiano Carmosino e altri. Quindi una corposa, perché avremo due weekend di proiezione con 12 opere in totale, due workshop di formazione, uno di regia documentario tenuto da Alessandro Aiello in Arte Cane Capovolto, e una di filmmaker web tenuto invece da Alessio Miceli o Axel Film. Dei focus di approfondimento sul web documentario, sulle opere crossmediali, con un lavoro diciamo mai uscito ancora in Italia, del nostro collettivo, del collettivo Fremos, che curerà la direzione artistica di questa rassegna, e di un altro lavoro di un regista siciliano che si chiama Enrico Montalbano, con un progetto di nome Vento. Mm-hmm. Quindi saranno 10 giornate molto intense. Noi siamo molto felici perché la prima edizione, come dicevo, è stata quasi una scommessa, è nato tutto per caso, dopo l'ingresso del nostro collettivo all'interno del network dei documentaristi siciliani, che è un organo che si è formato nel dicembre del 2013 a Palermo, raccoglie un po' tutti gli autori di documentari siciliani, autori, sceneggiatori, anche case di produzione più o meno indipendenti, e in brevissimo, nel giro di una settimana, all'ultima riunione, parliamo di aprile, abbiamo deciso di lanciare un comunicato dicendo agli autori: volete venire a Noto a proiettare i vostri lavori, a promuovere i vostri lavori, ma soprattutto a incontrare il pubblico, cosa fondamentale, che è un po' lo spirito, sì, poi sì, di documentare, della scelta che abbiamo fatto. E effettivamente nel giro di una settimana abbiamo avuto a disposizione il teatro comunale, che è una location molto bella, e sono venuti. Abbiamo fatto degli incontri settimanali, quindi distribuiti nel tempo fra aprile e maggio, e abbiamo avuto veramente un grande successo, ma più che altro per il contatto che si è venuto a creare fra gli autori e il pubblico, motivo per il quale abbiamo deciso di scegliere la formula definitiva comunque di rassegna e non di festival. Mm-hmm. E questa è una cosa che voglio puntualizzare. Sì. Non ci saranno premi, non abbiamo difatti creato un bando di partecipazione, non ci sono delle giurie, abbiamo fatto delle chiamate appunto al bacino di autori presenti all'interno del network, che sono più di 150, e abbiamo insomma lanciato la comunicazione. Poi chiaramente ci sono arrivati parecchie opere, sono stati tra l'altro tutti molto interessati, abbiamo fatto una selezione più o meno delle opere scelte, e quindi insomma le proiezioni diciamo saranno più un momento di dibattito e di incontro che è un momento, come dire, di vetrina, ecco. Chiaramente sì, i lavori verranno promossi, ma la cosa fondamentale è che il pubblico potrà interagire sempre con gli autori, potrà chiederle tutto, e ripeto, dalla prima edizione ci siamo resi conto che c'è un pubblico molto voglioso in Sicilia di non stare soltanto seduto su una sedia e prendere passivamente quello che gli viene proposto, ma anche di interagire, capire la realtà, forse perché c'è un'urgenza anche di raccontare la realtà oggi, e da parte della gente un'urgenza di comprenderla, no? Sì, sì, sì, sì. E quindi questo, insomma, dal 14 al 23 novembre, ripeto. Senti Francesco, restando allo specifico vostro annoto, mi sembra che ci sia anche da lì un grosso fermento, perché insomma la prima edizione è stata primaverile, questa seconda autunnale, quindi in pochi mesi avete tirato fuori già due rassegne. Sì, devo dire che la città di Noto in questo periodo sta vivendo un, come dici tu, un fermento, più che altro una rinascita, perché comunque è stata sempre una città che nel corso del tempo ha avuto dei periodi, no, di fulgore, poi chiaramente ci sono stati anche dei periodi bui anche molto lunghi. Ultimamente invece si sta riprendendo molto anche la scena, novembre ad esempio, che è un mese di norma abbastanza morto, vede non soltanto noi con queste 10 giorni di rassegna, ma un'importante mostra fotografica che si chiama Med Photo Fest, e poi c'è una rassegna importantissima che è arrivata al sesto anno, che Vola Libro. È un mese molto pieno, come d'altronde tutto l'inverno. Ah. Io da questo punto di vista devo ringraziare chiaramente l'amministrazione comunale, in particolare per gli assessori al turismo e allo spettacolo, che ci hanno sostenuto, hanno creduto fin da subito, ecco, a questa rassegna, e ci hanno dato una mano. Ma ripeto, più che altro è la gente che è la fa città, la parte. È ecco. La città, sì. Sì. Senti, per quanto riguarda i lavori che presenterete, ci sono dei temi più ricorrenti anche rispetto ai lavori che vi sono arrivati più in generale? Guarda, i temi sono molto eterogenei, devo dire, noi abbiamo scelto di trattare temi eterogenei, chiaramente, come dicevo, per questa visione multipla sulla realtà, sì. Per questa urgenza di visione. Devo dire però che c'è stato un interesse, mentre nella prima edizione ci sono arrivati più temi legati alla narrazione delle vicende politiche, delle vicende di mafia, chiaramente, lavori che ci sono anche in questa edizione saranno presenti. Il campo, noi siamo rimasti molto sorpresi perché c'è invece una spinta di racconto verso quella che è la realtà sociale, anche familiare, ecco, nei documentari di questi autori. L'omosessualità ad esempio è presente all'interno di due lavori che proietteremo, uno di Gaspare Pellegrino che si chiama Pride e uno di Cane Capovolta che si chiama Io sono una parte del problema. Poi c'è anche un'attenzione particolare alle dinamiche adolescenziali, e soprattutto il rapporto fra la biografia di importanti personaggi siciliani con la realtà contemporanea. Quindi c'è più, da quello che abbiamo potuto notare nei film che sono arrivati, nei lavori in cui ci sono arrivati e anche in quelli poi che abbiamo selezionato, che c'è proprio una spinta quasi di analisi della realtà sociale, sì, oggi, sì. E il tentativo chiaramente dell'autore di narrarla secondo il proprio punto di vista. Francesco, allargando il discorso a tutta la regione, mi dicevi del network che mette insieme parecchie realtà, quindi è proprio più in generale una grossa spinta quella all'attenzione per il reale e al formato documentario, quello che esce, sì, fuori. Assolutamente. Il network in realtà è nato dalla spinta di alcuni autori, in particolare tra cui cito Giuseppe Schillaci, che è stato un po' il promotore, poi è stato subito preso in consegna, comunque spinto da Dokit e da Der, che tra l'altro, sì, stanno anche loro aiutando nella promozione di questa rassegna. Ed è stato un momento importante perché finalmente ci si è in qualche modo riconosciuti autori, non solo per un motivo chiaramente autoriale, di scambio di opinioni, di scambio di visioni, ma anche per una questione diciamo prevalentemente politica, ovvero come superare una fase difficile a livello economico, di finanziamenti, per chi si occupa di documentari oggi, per chi si occupa di analisi della realtà. Interessante da questo punto di vista che all'interno della rassegna verrà proiettato il film di Cristian Carmosino che si chiama Segni particolari documentarista, dove c'è un affresco in generale di quello che in effetti è non solo la difficoltà, attenzione, ma anche la volontà di superare questi ostacoli, che poi sono spesso ostacoli istituzionali, e riuscire lo stesso ad arrivare alla gente, insomma. Sì, sì, sì, però sì, c'è una volontà generale da parte degli autori e non solo di trovare un punto di incontro e di stringersi per affermare la propria esistenza e la propria identità. Quindi sì, potrebbe essere un momento, diciamo, un buon momento, ecco, quest'anno, sì, sì, e sì, anche sì, il prossimo per il documentario. Bene. E in chiusura diamo i riferimenti internet per chi volesse saperne di più sulle vostre attività e sulla rassegna? Certo, tutte le informazioni le potete trovare o nel nostro sito internet ufficiale, che è documentarianoto.it, poi chiaramente sui social network, quindi su Facebook alla pagina Documentaria, su Twitter con l'hashtag Documentarianoto, e basta. Là tra l'altro potete, nel sito potete trovare tutta la programmazione, il catalogo scaricabile online in PDF con tutte le opere, le sinossi eccetera eccetera, e anche riferimenti per l'iscrizione workshop per chi fosse chiaramente in zona. Benissimo. Quindi sì, i riferimenti sono questi. Benissimo, allora un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Alla prossima. Ciao Francesco. Alla prossima Documentaria. Ciao. Arrivederci. Francesco Valvo, uno degli organizzatori di Documentaria Noto in Sicilia dal 14 al 23 novembre. Ed eccoci con Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso. Ci sei, caro? Sì, sì. Oh, buongiorno a tutte e tutti. Ben ritrovato. Come va? Bene, molto bene, molto bene. Con te, come di consueto, ormai per le novità del mese, con piacere, tra l'altro, per quanto riguarda il documentario, perché abbiamo appena parlato con Francesco Valvo di Documentaria Noto, in Sicilia c'è veramente un grosso fermento, il che ci fa molto piacere. Cosa proponete questo mese, Andrea? Sì, questo mese abbiamo inserito tre novità. La prima, che per noi è stato veramente un enorme piacere, abbiamo iniziato ad ospitare sul catalogo Terra Promessa, che è questo lavoro di Leon Bruno e Luca Romano, che sono due registi della scena napoletana molto interessanti e molto attivi, ed è un lavoro appunto di realizzato quest'anno sulla comunità rom di Napoli e su tutta una serie di problemi appunto che questa comunità vive, in particolar modo rispetto al fatto che le proprie case sopra una discarica appunto in provincia di Napoli. È un film che per noi è veramente importante ospitare, sia per la qualità del lavoro che appunto anche per chi firma questo lavoro, che appunto sono due registi napoletani molto molto bravi, ma in più ci fa anche piacere perché era un film selezionato in gara al Terra di Tutti i Film Festival, quindi c'è un prosieguo anche di relazioni e network con tutte queste realtà chiamate in causa. E dopodiché abbiamo deciso di ospitare anche questi due lavori, questi due mediometraggi realizzati da questo gruppo veneziano molto molto giovane, è un gruppo di appunto di freelance tra i 20 e i 25 anni, quindi è un'esperienza nuova e molto interessante, anche perché nonostante appunto sono molto giovani la qualità dei loro lavori è già molto alta, e sono due lavori. Uno è un documentario appunto mediometraggio che affronta attraverso interviste e testimonianze, cerca di fare una mappatura di quello che è il cinema italiano indipendente oggi. Il lavoro si chiama Cinema dall'Underground e chiaramente per noi è anche molto interessante vedere sotto che lente hanno loro raccontato questa storia, che sentiamo in qualche maniera molto vicina, come ben potete immaginare. L'altro invece è molto importante perché è questo mediometraggio di circa 10-15 minuti che si chiama Marghera ed è ambientato, come potete immaginare, nelle zone dismesse appunto delle famose fabbriche di Marghera. Ma la cosa importante di questo lavoro è che non è un documentario, ma è un lavoro di fiction, e abbiamo deciso così, attraverso questo lavoro sperimentale, di aprire ufficialmente sul nostro catalogo anche una sezione fiction. Chiaramente è un work in progress anche da questo punto di vista, però ci tenevamo molto, e anche perché questo punto apre tutto il progetto a nuovi orizzonti, ecco, in qualche maniera. Beh, mi sembra una bella apertura. Per quanto riguarda altre scelte di lavoro di questo periodo, Paco, ci puoi far riferimento a qualcosa? Sì, noi stiamo covando parecchie cose, parecchie novità. Alcune riguardano la struttura stessa del sito, che appunto, per chi non lo sapesse, è www.distribuzionidalbasso.com, quindi stiamo lavorando su nuove funzionalità del portale, e soprattutto a questo punto lo possiamo dire, ufficialmente stiamo lavorando a un processo di internazionalizzazione del portale in quattro lingue, un lavoro che ci richiederà molto, molti sforzi, ma su cui ci teniamo molto, perché crediamo sia arrivato il momento di aprirci appunto ad altri network fuori dall'Italia, e soprattutto di incontrare nuove esperienze come la nostra fuori dal contesto italiano. Ci vorranno alcuni mesi, ma è una cosa su cui stiamo lavorando molto. Ma soprattutto un'altra cosa importante è che apriremo tra dicembre e gennaio, ancora non vi sappiamo dare dei tempi precisi, una sezione archivio storico, che invece sarà completamente in streaming, cioè gratuitamente in streaming per gli utenti, dove stiamo praticamente collaborando con alcuni archivi storici dei movimenti, in particolare uno qui a Bologna, che è l'archivio Lorusso Giuliani, per fare un'opera di digitalizzazione dei materiali spesso in VHS, che riguardano appunto dalla Pantera degli anni 90 nella scena bolognese, a tutta l'esperienza che collateralmente e internamente al movimento del 2001, di Genova 2001, e rendere questi materiali fruibili in streaming gratuito direttamente dal portale per chiunque, per qualsiasi ragione, anche di ricerca per esempio, ma anche di ricerca universitaria o quant'altro, potrà utilizzare. Beh, quindi insomma, come vedi, c'è tanta carne al fuoco, speriamo di tenere le forze come si dice adeguate alle idee, perché sì, ovviamente stiamo in questa fase lavorando su più fronti in maniera molto molto accelerata, e speriamo insomma di proseguire. Progetto notevole. Per quanto, visto che siamo entrati in pieno dell'autunno, volevo chiederti lo stato delle cose rispetto alle autoproduzioni indipendenti. Sì, noi stiamo vedendo molte esperienze interessanti, sì, soprattutto il moltiplicarsi di molte esperienze interessanti, e questo secondo me è il dato da cui partire. Ma già che sei entrato in argomento, vi segnalo una cosa che non so se ne avete trattato oggi durante la trasmissione. Da stasera a domenica a Torino c'è una quattro giorni di incontro, riflessione, condivisione tra varie realtà ed esperienze che hanno appunto fatto dell'autodistribuzione e dell'autoproduzione una ragione anche d'essere in qualche maniera dei propri progetti. Alla Cavallerizza Occupata lo faranno questa quattro giorni, il progetto si chiama Procreazioni, e saremo lì anche noi. Infatti adesso tra un po' prenderemo il treno per Torino, e sicuramente è un'esperienza, un tentativo di interconnessione a livello nazionale che non può che far bene insomma tutte queste esperienze, perché sì. Quello che noi crediamo, abbiamo sempre sostenuto, ma più si va avanti più ne siamo consapevoli, è proprio il fatto che l'aggregarsi all'interno di una rete nazionale sia il vero salto che va fatto per tutta una serie di esperienze che in diversi territori locali, diverse esperienze locali si sono mosse, maturate e cresciute in questi anni. Sì. Dell'incontro alla Cavallerizza mi era arrivata comunicazione dal Teatro Valle Occupato, perché è una delle realtà chiamate in causa, esatto, in questo incontro, esatto. E rispetto alla Cavallerizza, martedì faccio questa anticipazione, dovremmo ospitare il reading della Gerusalemme liberata, che è stato realizzato, le cui prove sono state proprio realizzate all'interno della Cavallerizza Occupata, ecco. Paco, io ti ringrazio. Chiudiamo direi al solito con una pillola per chi ci ascolta che definisce l'entità distribuzioni dal basso. Qual è la vostra filosofia? Sì, esatto, distribuzione dal basso, per chi non lo conoscesse, è un portale online, distribuzionedalbasso.com, che con i propri mezzi, strumenti e funzionalità, da circa un anno e mezzo sta sostenendo, non dico a caso sostenendo perché è un lavoro di supporto al lavoro stesso dei registi indipendenti, la diffusione delle opere creative. Siamo partiti col documentario e, come vedrete se andate sul sito potete notare, è ancora molto sbilanciato sul documentario, perché siamo documentaristi anche noi in prima persona, però in questo ultimo anno si è gradualmente aperto ad altre esperienze e anche, come vi dicevo in apertura, anche alla fiction. in punti di collegamento tra queste opere, che sono spesso opere molto diverse tra di loro sia per temi che per modalità, è che comunque sono tutte opere creative che emergono da un panorama di varie esperienze territoriali di appunto registi freelance, registi indipendenti, collettivi di freelance ed esperienze emergenti, proprio perché, come vi dicevo prima, l'intento graduale è quello di creare una rete nazionale di progetti che in qualche maniera, anche condividendo tra di loro le esperienze e sia nel bene che nel male di questi anni, possono non fare altro che rafforzare nell'insieme tutto questo panorama che, per chi non l'avesse notato, è sempre più caldo, acceso e vitalizzato, per cui continuiamo a seguire questa scia, che riteniamo essere una scia anche che appartiene anche a noi come esperienza, nella consapevolezza che il modo migliore è una continua moltiplicazione di queste esperienze, ecco. Paco, io ti abbraccio e ci sentiamo alla prossima. Grazie a voi. Ciao. A presto. Ciao. Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso sulle novità di novembre. E ritroviamo Roberto Proia di Notorious Pictures sulla distribuzione del film Lo Sciacallo, anche questo in uscita oggi, giovedì 13 novembre. Roberto, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, grazie per avermi chiamato. Allora, nuovamente, come siamo soliti fare, qualche indicazione di trama per questo film? Sì, allora, la storia è quella di Lou, che è un disoccupato a Los Angeles che si arrabatta, un po' fa il ladruncolo, un po', insomma, fa dei lavoretti. Lui non è, si capisce dall'inizio del film che è un po' il personaggio di Robert De Niro in Taxi Driver, cioè una persona con una personalità un pochino squilibrata, capisce che ha dei semi di follia, però non capisci quanto. Lui un giorno, andando in autostrada, vede un incidente e capisce che c'è tutta una schiera di avvoltoi con le videocamere che riprendono gli incidenti mortali per poi vendere il loro footage ai network televisivi, quindi decide di entrare in questo ambiente. La differenza sarà che lui prenderà il suo lavoro talmente sul serio che questi incidenti inizierà ad anticiparli fino poi addirittura a provocarli, pur di fare audience, pur di vendere i suoi servizi. Oh, intanto mi ha così incuriosito il film che gli ho dedicato la copertina di questa puntata con una foto del nostro protagonista con alle spalle tutta una schiera di video. Uno degli elementi centrali di questo film, in cui la caratterizzazione sicuramente del protagonista ha è talmente calcata da apparire grottesca, e è il ruolo svolto dai media, a partire dai media locali, perché le televisioni di cui stiamo parlando sono quelle che lavorano su Los Angeles. Sì. Però la centralità delle notizie, e poi qui va anche, poi funziona anche sull'andamento e la guida dello share in qualche modo, legate profondamente alla cronaca nera, al sangue. Sì, no, c'è una frase nel film che rappresenta bene questa come dire, questa etica, tra virgolette, che il sangue porta soldi. Quindi più è cruento l'incidente, più si vedono cose tremende, e più insomma l'audience si impenna e gli investitori sono più contenti. Sì. È sicuramente un fortissimo atto d'accusa verso un certo tipo di sciacallaggio mediatico che, diciamo, è abbastanza, sicuramente un fenomeno che nasce in America, dove appunto nascono i media, ma non diciamo, anche l'Italia non è estranea. E poi anche parla una cosa molto attuale del fenomeno dei reporter fatti in casa, qui noi abbiamo i reporter, ad esempio, qui in Italia, come tipologia lo stile di ripresa, un po' come dicevo appunto, da found footage quasi. Sì. E diciamo che il film ha questo, poi chiaramente sicuramente il film decolla, oltre che per il messaggio che dà, che sicuramente è molto forte, decolla perché è un fortissimo thriller. Cioè, tu vuoi sapere fino a che punto questo pazzesco Jake Gyllenhaal si spinge, perché lui veramente fa una performance incredibile in questo film. Sì. Oh, un altro aspetto è quello dei responsabili di un certo ruolo a livello dei media locali, e che sono prontissimi ad andare al di là delle leggi, poi, pur di piazzare il loro prodotto. Sì, infatti l'altra cosa interessante è che noi appunto abbiamo René Russo, che fa la executive di questa stazione televisiva, che alle prese con la polizia, che chiaramente vuole sapere cosa succede, come fanno loro ad avere queste immagini sempre prima degli altri, esiste una linea oltre la quale nemmeno la polizia può andare, altrimenti si rischia l'accusa di voler imbavagliare l'informazione, ma in realtà è paradossale, perché è informazione comunque fabbricata quella che fanno. Il tema è che comunque questa stazione televisiva era in calo di ascolti e grazie al sangue è ritornata su negli ascolti. Quindi è un fortissimo atto di accusa nei confronti dei media che lo trasmettono, ma chiaramente perché c'è un pubblico che è disposto a vederlo. Sì. Ed è comunque un sistema che fa scuola in tutto il mondo, se vediamo i nostri telegiornali delle reti pubbliche, insomma la cronaca nera ha sempre una parte grossa di rilievo e tra le prime notizie. Sì, ma tutti i programmi anche di approfondimento, di storie criminali, tutto ciò che è un po' morboso sicuramente attira. Poi, quanto i media vogliano smarcarsi comunque un ruolo educativo che loro hanno, e quindi fregarsene e come dire, titillare questi istinti bassi, è questo il vero atto d'accusa che lancia il film. Sì. Senti, come lo avete incontrato e come avete deciso poi la distribuzione? Allora, noi l'abbiamo acquistato su Sceneggiatura. Il regista è un regista opera prima, ma fa parte del team dei Gilroy, che sta dietro a tutti i Bourne, quindi sapevamo che avrebbe fatto un film d'azione molto veloce, molto, molto moderno. L'abbiamo comprato a Toronto dopo aver incontrato Gyllenhaal, che ci ha parlato del progetto, e anche se a noi era piaciuta tantissimo la sceneggiatura, non pensavamo che il film venisse così bene, non pensavamo che sarebbe stato un tale successo in America da andare al numero uno, e non pensavamo addirittura che Gyllenhaal avrebbe fatto questo tale lavoro per cui è sicura la sua candidatura all'Oscar come miglior attore per questo film. Quindi oltre ad aver visto abbiamo comprato una storia molto interessante, molto bella, abbiamo comprato del vero cinema con una grandissima interpretazione di cui chiaramente siamo orgogliosi, ci ha sorpreso in senso positivo. Roberto, in quante copie esce? 200 copie, una signora uscita, insomma. Sì, bene. Allora, un in bocca al lupo, ci sentiamo per le prossime novità. Grazie mille, ragazzi, buon lavoro. Ciao. Roberto Proia di Notorious Pictures sulla distribuzione del film Lo Sciacallo, in uscita in sala oggi, giovedì 13 novembre. Dovremmo avere un ultimo collegamento. E dopo un po' di tempo ritroviamo Claudio Noce, regista del film La foresta di ghiaccio, in uscita in sala oggi giovedì 13 novembre. Claudio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ben ritrovati a voi, un saluto a tutti e a tutti, e grazie insomma di avermi dato questo spazio e un saluto. Allora, siamo soliti sempre dare qualche piccolo elemento di sinossi, di trama per chi ci ascolta. Quindi Claudio, dici la storia un po' brevemente di questo film. Allora, guarda, il film ha una storia molto complessa, quindi mi viene difficile dirlo brevemente. Comunque è un film totalmente ambientato in alta montagna, in un piccolissimo villaggio immerso in un'immensa foresta ghiacciata, come fosse una favola nera, e dove vive un gruppo di operai che lavora alla manutenzione di una centrale elettrica in alta quota, incastrata in una diga che interrompe la natura, come se fosse una immensa cattedrale nel deserto. E c'è un blackout, arriva in questo villaggio un giovane operaio, Pietro, per fare questa riparazione, e in poco tempo però si rende conto che questi operai non sono esattamente quello che dicono di essere, il mistero si infittisce quando uno di questi operai, Lorenzo, quello con cui Pietro aveva creato un rapporto più stretto, sparisce. A quel punto Pietro inizia una sua indagine personale cercando di capire cosa sta effettivamente succedendo, e fino a incrociare i suoi destini con una detective donna, Lana, personaggio interpretato da Xenia Rapoport, che è lì per un presunto passaggio dei clandestini su una linea di confine con la Slovenia, e la linea è proprio segnata da questa immensa diga. Mm-hmm. L'incontro fra Pietro e Lana creerà un gioco di specchi performanti in cui di fatto nessuno sarà immune da sospetto, né Lana né Pietro e né secondo il personaggio che interpreterà Emir Kusturica, che è il capo di questa banda di operai che in realtà fanno tutt'altro in quel luogo. Il finale del film è molto intenso e diciamo c'è una grande sorpresa sul finale. Claudio, finisci, stavi... No, La prima curiosità chiaramente è come, da dove viene fuori questa storia, come nasce il progetto di film? Allora, la storia viene effettivamente, è un soggetto originale scritto da me, Elisa Moruso, anche regista di Fuoristrada, insomma, che conoscete bene, e Francesca Manieri. L'idea, guarda, è partita essenzialmente da provare ad aprire una porta che non avevamo mai aperto, io in primis come regista, una porta di un cinema di genere, di un cinema un pochettino più strutturato da un punto di vista narrativo, con delle regole abbastanza rigorose in partenza, e però mantenendo sempre un contatto molto forte con quello che avevo fatto fino a quel giorno, ovvero contatto con la realtà, con degli elementi sociali, quindi in qualche modo con l'immigrazione, che è un tema diciamo molto, a cui sono molto legato sia nei corti che nel mio primo film con Marin Gaman, ed è venuto fuori un film. Appunto, da una parte c'è il thriller, diciamo non convenzionale, dall'altra però c'è un legame forte con una problematica che è quella dell'identità, del transito e dell'immigrazione. Mm-hmm. Sulle montagne, quindi non in mare, e quindi ci siamo immaginati questo film, che è diventato una sorta di favola nera, insomma è un luogo che non esiste e ci siamo inventati in qualche modo, anche perché comunque i produttori di questo film, mi ricordo Matteo Rover e Andrea Paris, avevano voglia di provare a fare un film di genere con un regista che secondo loro era una bella sfida, perché da un certo punto di vista non mi ero mai cimentato una cosa di questo tipo. Mm-hmm. Senti, di fatto quattro teste alle prese con questa sceneggiatura, com'è stato il lavoro? Ma guarda, il lavoro è stato molto difficile, siamo partiti, non ho il tempo e in questo momento per raccontare tutto, però siamo partiti da una storia che era molto distante di fatto, anche proprio con l'ambientazione, diciamo che partii da un contesto più urbano, figurati. Sì. Poi io avevo voglia di scappare un po' dalla città, che in qualche modo mi iniziava un po' a proteggere troppo nelle mie storie, avevo bisogno di provare a cimentarmi in un ambiente diverso, in cui poi appunto la natura è proprio una parte del film, e quindi è uscita fuori poi l'idea di creare il palcoscenico di questa storia in montagna. È stato molto difficile, devo dire la verità, questo lo dico perché ce lo siamo vissuti per 2 anni, è stato un lavoro molto difficile, e soprattutto poi quando tu scrivi una sceneggiatura così complessa e poi ti devi confrontare con la realtà produttiva, che era effettivamente comunque era un film difficilissimo, l'abbiamo voluto fare a ogni costo, e quindi abbiamo dovuto fare anche delle rinunce da un punto di vista drammaturgico. Mm-hmm. Perché poi sai, il tempo, sì, è il valore aggiunto per tutti noi, e il tempo per girare questo film era molto poco, ho fatto 5 settimane, un film che devo dire nel cuore dell'inverno, in alta montagna, col freddo, è stata veramente una sfida. Senti, e l'intreccio tra la realtà e la finzione, quanto entra l'uno nell'altra, nell'idea che avevate all'inizio e poi nel lavoro che avete effettuato? Sì, effettivamente appunto nell'idea che avevamo all'inizio forse era ancora, diciamo, c'era un livello forse anche superiore da questo punto di vista. diciamo che le rinunce di cui ti ho parlato sono proprio anche proprio in relazione al fatto che la sfida era molto grande, perché volevamo unire due approcci anche diversi da un punto di vista filmico, tenere sempre forte appunto il contatto con la verità e con la realtà e con le emozioni, però mantenendo un meccanismo classico, perché nel momento in cui tu ti metti in gioco su un genere, noir, thriller, chiamiamolo come vogliamo, perché poi devi comunque sottostare a delle regole, sì. E quindi è stata quella la grande difficoltà nel poco tempo che poi avevamo, che ho avuto, perché poi il film, come dire, poi dalla scrittura è passato tutto, totalmente nelle mie mani, insomma. Però ecco, le due autrici, Elisa e Francesca, hanno lavorato molto con me proprio a questo aspetto, questo cercare di creare questa dicotomia che probabilmente era la grande sfida, il valore del film. Senti, il passaggio ad un cast di livello internazionale, ecco, com'è stato il lavoro con gli attori? Allora, è stato difficilissimo, proprio perché il film non aveva un legame vero e proprio con una comunità e con un luogo che esisteva, cioè ce lo siamo proprio inventati, quindi avevo a che fare con un attore regista come Emir Kusturica, sloveno, un'attrice russa, due attori italiani che comunque non erano di quella zona, quindi noi il film è girato in Trentino ma è ambientato al confine con la Slovenia, quindi c'era quell'accento e quelle cose. È stato molto difficile, ma è stato un lavoro per me incredibilmente importante, proprio per quello che spero riuscirò a fare in futuro, nel senso che è stato veramente un passaggio, come hai detto te, fatto un salto importante proprio anche nella difficoltà che questo cast mi ha recato, nel senso Emir Kusturica, nel momento in cui abbiamo deciso di coinvolgerlo, sapevamo effettivamente anche dei rischi che ci potevano essere in questa scelta, e devo dire che è andata molto bene. È stato un onore incredibile per me poterlo dirigere. Quando è arrivato sul set, non ti nascondo che insomma ero molto preoccupato, ma come tutti lo eravamo. Devo dire che lui è stato veramente disponibile. Il primo giorno mi ha studiato molto, ha voluto stare molto al monitor fra un ciacco e l'altro, e poi ha capito che si poteva fidare ed è nato un bel rapporto. Mi ha rispettato, ha rispettato il mio modo di vedere le cose, e ovviamente ha portato anche sul personaggio delle cose sue, ed era molto bello interagire con lui nel momento in cui stavamo lì a preparare la scena. Se devo dire, poi c'è un aneddoto che mi piace molto, che mi piace raccontare, che lui ovviamente ha una visione della violenza anche a volte molto grottesca e molto ironica, ma nel suo cinema funziona tantissimo ed è stata una delle grandi forze del suo cinema, e a volte appunto lui mi proponeva quell'approccio più grottesco e più ironico, e devo dire che in questo film non funzionava, e quindi è stato anche divertente il fatto che a un certo punto ho dovuto arginare la grande forza di Emir nel dirmi alcune volte che il suo personaggio poteva avere anche delle, che erano sicuramente cose molto interessanti, ma in questo film forse non andavano. E poi con Xenia un rapporto molto bello, un'attrice straordinaria, con un rigore proprio russo, come si vuol dire, ed è vero, ed è stato molto bello lavorare con lei. Stessa cosa Adriano, il giovane Domenico Diele, che è un talento che credo uscirà fuori presto. Mm-hmm. Insomma, senti, soddisfatto? Ti ci riconosci in pieno in questo tuo lavoro? Sì, sono molto soddisfatto, proprio per quello che ti dicevo, nel senso che per me è un film che mi ha segnato molto in tutti i sensi, e quindi ora io dico è come se ne avessi fatti due, rispetto all'esperienza che ho fatto e alle difficoltà che ci sono state in questo film, perché non è inutile nascondere, è stato un film molto difficile, e quindi insomma sì, sono molto soddisfatto che finalmente sta nascendo. È stato un lavoro meraviglioso, insomma, per me. In quante copie esce, Claudio? Guarda, esce in 20 copie, che siamo a Roma in 4 sale, le ricordo, in Trastevere, Lux, Adriano, Usci, Fiumicino e, oddio, mi sfugge l'altra, però forse tu lo sai. Quattro ne hai dette, però. Ah, l'ho detto quattro, okay. esatto. E poi, sai, diciamo che il momento non è semplice, siamo proprio in piena a novembre, l'uscita non è certamente ne parlavo prima con Gianfranco Pannone, diceva questo weekend 13 uscite non è semplice. No, ma guarda, infatti immagino pure Gianfranco, cioè, io adesso sono a Trento qui a presentare il film dove l'abbiamo girato e ero col produttore in treno e ci rendevamo conto che veramente abbiamo fatto una scelta importante, perché siamo proprio nel weekend, forse in uno dei primi weekend di fuoco prima di dicembre, gennaio, e insomma vediamo, l'importante è essere, rimanere vivi un po', insomma, questo. Quindi secondo me è un film che interessante, poi giudicherete voi, e quindi consiglio a tutti di andarlo a vedere, perché sicuramente è un film diverso da un panorama italiano che è diciamo un panorama che ha tanti bellissimi film di tutti, però ecco, fondamentalmente in questo caso abbiamo tentato di fare qualcosa di diverso, quindi consiglio di almeno di darci un'opportunità, andarlo a vedere e poi giudicherete voi. Quindi La foresta di ghiaccio, ma almeno bisogna dare una possibilità. Benissimo, Claudio, t'abbraccio, alla prossima. Grazie a voi, un abbraccio a tutti e a tutti. Grazie, ciao, ciao. Ancora. Claudio Noce, regista del film La foresta di ghiaccio, in uscita in sala oggi giovedì 13 novembre, e con lui chiudiamo la puntata settimanale di Visionari. Tutte le informazioni sulla trasmissione di cinema di Radio Onda Rossa le trovate sul sito internet della radio, che è ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è visionari@ondarossa.info. Potete seguirci in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal computer, sempre dal sito della radio. Sulla homepage c'è l'opzione Ascolta la diretta.